giro per la strada sempre con le mani in tasca. Vorrei avere fortuna al gioco come Mattia Pascal, ma una cosa se la vuoi devi conquistarla. Questa non è vita, questa è Sparta. Cazzo me ne frega del tuo rap fake, fai tanto il duro ma sei morbido, pancake. Il mio rap per te è uno scanto contro il guardrail. Dormi i pesci non li prendi, non sei mica Sanpei. Spacco beat vecchi, spacco beat nuovi, sicuro frate con due rime tutti rintroni. Vi prendo e vi stitolo come i pitoni. Troppi rapper ma sarebbe meglio pochi ma buoni. Scrivo con la metrica, mi viene naturale, non ti puoi capacitare, vedi le palle girare. Elica, tu manchi di etica, vuoi sempre trionfare, ma che ci vuoi fare bro, non è sempre domenica. Impara le mie strofe, dopo vieni a farle doppie. Crudi coglioni, girate sempre a coppie. Non capisci mica rappo per le coppe, zi. Se non le vincono spariscono, son Copperfield. Rime ricercate ma son loro che mi trovano. Le pesa grammo d'oro e son pesanti come il mogano. Porto solo flow quando vado al med studio. Faccio roba di un altro pianeta, Mercurio. Do più botta della febbre alta, voglia io ne ho sempre tanta. Sto tra gente in gamba, cresco sempre tipo pianta. Certa gente è meglio se la pianta, nel mio muro ci si schianta. La sfiga non si scampa ma lo stesso qua si campa. Giù dal cielo ormai viene un po' di tutto. Mi chiedono se spacco, rispondo sì di brutto. So fare questo, scrivere un testo, osservare fuori e soprattutto osservarmi dentro. Le chiudo così forti che ho rime bodybuilder. Porto più effetti speciali di Steven Spielberg. Ogni rima è fuoco che accende le micce. Te al massimo sei buono per la polvere, Swiffer. Miglia quanto me la sballa dire fiumi di parole. Quando vedo il sole pure quando fuori piove. Scrivo vita sopra i fogli, roba dei miei giorni. Vita vera molto spesso, mescolata ai sogni. Io ti schiaccio insetto, ti entro nei sogni Inception. Pretendo rispetto, faccio ste rime per dispetto. Fuori c'è caldo, mi rinfresco, io vi mangio l'infresco. I tuoi pezzi sono bombe, io li disinnesco. Sempre spenti, cielo grigio. Voi perdenti, denti fricio. Ammazzo tipo cecchino, sotterro tipo becchino. Mi distingo da sti rapper fatti con lo stampino.